Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Da fuori potrebbe sembrare che stai maneggiando un'arma. Stai fermo, non ti muovere, mi ripeteva. Senza che lui aggiungesse altro, mi girai. Fuori dal finestrino alla mia destra comparvero quattro poliziotti. Sono Pierluigi Martena, abito in provincia di Lecce. Ho 38 anni e lavorare è una parola grossa. Diciamo che faccio il segretario in una scuola calcio di un ex calciatore mio amico. Mi è capitato di tutto, dal 20 gennaio 1976, quando mi presentai ai carabinieri per testimoniare su un delitto, al 7 aprile 1993, giorno in cui il Presidente della Repubblica ha deciso di chiudere il caso con un provvedimento di grazia. Ho passato 6 anni in galera, ho subito 11 processi che hanno investito ogni possibile grado di giudizio del nostro ordinamento, corti costituzionali compresa. Hanno coinvolto 86 giudici e 50 periti. E per finire ho rischiato di morire per una malattia contratta in carcere. Sulla mia innocenza o colpevolezza, le corti che mi hanno giudicato hanno espresso pareri sempre differenti tra loro, senza risparmiarsi critiche al vetriolo. Ha avuto la meglio l'ultima, che mi ha giudicato molto, molto colpevole. Sono le 16:08, buongiorno a tutti, questa è Radio 24 e il programma si chiama Voi siete qui. In questa puntata di Voi siete qui parliamo della storia di Pierluigi, ovviamente, che è la voce che avete sentito in apertura nell'intro del programma, che ci racconta una storia molto banale e molto semplice, legata proprio a un errore di bersaglio. Cioè tu ti trovi in un posto, arrivano delle persone, che nel suo caso sono dei poliziotti, e si sbagliano proprio, scelgono te e a un certo punto si accorgono che invece il loro bersaglio è un altro. Parlando di Pierluigi e parlando della sua storia, che a breve vi racconterò, oggi non potevo fare a meno di raccontare un'altra storia, che è una storia che è molto nota per due motivi. Il primo è che quel caso fu un caso giudiziario, vero e proprio. E fu un caso giudiziario che prese il nome del protagonista della storia, che era Massimo Carlotto. Il caso Carlotto è diventata una storia che si è trasformata in un libro che si intitola Il Fuggiasco, che Massimo Carlotto, che ormai di fatto è un personaggio molto noto e soprattutto uno scrittore, sceneggiatore, autore teatrale, visse anni fa, che si concluse proprio nel modo in cui avete sentito, con una grazia da parte dell'allora Presidente della Repubblica, che nel 93 era Scalfaro, credo. Possibile? Margherita, mi guardi chi era il Presidente della Repubblica nel 93? Era Oscar Luigi Scalfaro, era il novarese Oscar Luigi Scalfaro. Più tardi vi leggerò un pezzo saliente di questo libro che si chiama Il Fuggiasco, editore EO, se dovesse interessarvi, che credo sia stato... credo il primo libro pubblicato da Carlotto, o comunque in ordine cronologico racconta un pezzo legato proprio alla parte più giovane della sua vita e di questo caso. 349-238-6666. Si possono fare però diversi errori di bersaglio, qualunque sia stato il vostro. Se si trattava, che so io, di inseguire qualcuno convinti che fosse uno invece era un altro, oppure come nel mio caso, vi racconterò più tardi, di mira una persona che purtroppo non era lui, però poi alla fine si è risolto tutto fortunatamente in maniera amichevole. 349-238-6666. Rudy mi scrive: mi è capitato di essere vittima in due occasioni diverse, una volta con mia sorella. Ci ha fermato la finanza e trattati da narcotrafficanti davanti all'ipermercato del nostro paese. Questo dettaglio è fondamentale, perché davanti all'ipermercato del tuo paese è brutto essere trattato come un narcotrafficante, con tutta la gente che ci conosceva, appunto. Poi un'altra volta un investigatore privato pagato dalla mia attuale compagna ha inventato una storia. E beh, questi sono questi più che errori di bersaglio, sono questioni legate a cose sentimentali, e sono sempre più drammatiche di quanto non sembrino. Come no, Cristina mi scrive: Leonardo, un anno più grande di me, per 4 anni gli sono corsa dietro come non mai, persa, fusa, ho fatto di tutto per attirare la sua attenzione, anche cose che non sono da me e che non avrei mai fatto col senno di poi. Adesso ho conosciuto uno dei suoi migliori amici e veramente vorrei che il capitolo Leonardo non fosse mai esistito. E invece forse quell'errore di bersaglio ha fatto sì anche che ora siamo quelli che siamo. 349-238-6666. Questa qui è la storia di Pierluigi. Ma secondo te Van Basten torna a giocare? Non c'è niente da fare, questa era la mia fissa. Chiacchieravo con Nicola. Eravamo seduti nella sua macchina parcheggiata davanti alla sua edicola in via Ampère a Milano. Era primo pomeriggio. L'edicola non aveva ancora riaperto. Così ce ne stavamo in macchina ad ascoltare la musica e a parlare del Milan. Mentre lui era intento a inserire lo stereo, mi chiese di prendere una cassetta dal tascone interno allo sportello alla mia destra. Come sempre, la scelta della musica tra due amici è un'operazione complicata e divertente. Di fronte alla scelta di un artista da ascoltare, proprio lì, in quella determinata situazione, volano sempre commenti più disparati, tipo «Ma Masini no, a quest'ora Masini no!» Ma mentre mi pregustavo tutto questo, Nicola mi intimò di non muovere il braccio destro. «Da fuori», mi diceva, «potrebbe sembrare che stai maneggiando un'arma». Io ero spaventato, non capivo. «Fermo, stai fermo», mi ripeteva. E io continuavo a non capire. Senza che lui aggiungesse altro, mi girai. Guardai fuori dal finestrino alla mia destra. Mi comparvero quattro poliziotti. A quei tempi avevo 20 anni. Nicola poi non l'ho più sentito perché prima abitavo a Milano per studiare, poi dopo sono tornato giù in provincia di Lecce. Due di loro vennero verso di me, con la pistola puntata. Mi intimarono di scendere. D'un tratto, letteralmente incredulo, mi ritrovai come dentro un film. Non avevamo nemmeno la forza di chiedere spiegazioni. Da un lato della macchina perquisivano Nicola, dall'altro me. Avevo le mani poggiate sul tetto della macchina e mentre un poliziotto mi perquisiva, l'altra, era una donna, mi teneva puntata la pistola contro. Sembrarono minuti interminabili. Nessuno diceva niente. Nicola intanto, con un bel gruzzoletto di soldi in tasca, gridava che quello era l'incasso dell'edicola. Fino a quell'istante ero convinto che a Milano tutti fossero solo intenti a correre, a lavorare, il più classico dei luoghi comuni. Che insomma, non ci fosse nessuno, o nemmeno il tempo per nessuno, per curiosare davanti a una scena del genere. Quella volta invece erano tutti lì a guardarci. Marione, il pazzo del quartiere, Enzo, la guardia giurata della banca dietro l'edicola, e dall'altra parte della strada, quelli del bar, e poi quell'interista del parrucchiere. Il tutto è durato circa 3-4 minuti. Quando mi sono trovato puntata la pistola addosso, me la sono letteralmente fatta addosso. Ho pensato soprattutto che appunto dovevo essere lì immobile perché appunto avevo paura che potesse partire qualche colpo. E poi ad un tratto, mentre mettevo insieme confusamente i dettagli, poco più avanti, a 100 metri di distanza, una Peugeot verde partì sgommando. I poliziotti a quel punto pensarono bene di piantarci in asso. Si rimisero nella volante e inseguirono quella macchina. L'incubo in un attimo era finito. Dal bar di fronte subito Pino e Gino a gridare «Ve la siete fatta sotto, eh?» Enzo, la guardia giurata della banca, scusandosi, ci spiegò. La banca aveva notato una macchina sospetta e aveva quindi avvisato la polizia. La macchina sospetta era di colore verde, lo stesso della macchina di Nicola. «Ecco perché», ci spiegava, sorridendo per la situazione surreale in cui ci aveva cacciato la polizia, aveva sbagliato bersaglio. Ma ormai non era più importante. La paura era svanita di colpo. Mi divertiva l'idea di aver vissuto una scena da film in via Ampère a Milano. Chico ha una cicatrice sulla faccia, sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Prova al sole di scaldarsi il cucchiaino, Spillo sta rubando un altro motorino, il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. Nel 1962 Kubrick sta girando Lolita, uno dei suoi capolavori. Il protagonista della sceneggiatura dovrebbe essere il professore Humbert, interpretato da James Mason, che per stare accanto all'amata Lolita ne sposa la madre. Quando la donna muore, Humbert è libero di mettersi con Lolita. Quest'ultima però gli viene strappata da un ambiguo scrittore, Kilty, nel film Peter Sellers. Kubrick adora Peter Sellers come attore. Lo ha usato in più di un film. È l'attore con cui meglio identifica le sue storie. In questo caso però non ha un grande ruolo per lui. È un ruolo importante, ma qui il protagonista è il professor Humbert e la star è James Mason. Peter Sellers dovrebbe girare giusto poche scene, comparire nel film probabilmente meno di 5 minuti. Al primo ciak, Sellers deve scendere una scala mezzo ubriaco recitando una battuta. Un Chuck al cinema di solito non dura più di 30-40 secondi, difficilmente arriva ai 50, quasi mai al minuto. Ma in quel Chuck Peter Sellers dà sfogo a tutto il suo talento. Improvvisa un monologo sorprendente per intensità e inventiva, e Kubrick, che è un grande regista e conosce bene Peter Sellers, non glielo impedisce, anzi, a sua insaputa, fa montare tre macchine per ottenere inquadrature della stessa scena da punti diversi. E chiude il Chuck dopo 24 minuti. Grazie a questa scena, il film prende una piega completamente diversa. Il personaggio di Peter Sellers diventa il coprotagonista e James Mason impallidisce al confronto. Ecco, mi è venuta in mente questa storia perché, nonostante il racconto di oggi l'abbia scritto Pierluigi, l'involontario protagonista non è lui, ma i quattro poliziotti che sbagliano bersaglio. Sbagliare bersaglio, d'altra parte, a chi non è capitato? A volte capita di chiacchierare con la persona sbagliata, a volte di sbagliare strada e accorgersene troppo tardi. C'è un racconto di Italo Calvino in cui tre disperati fanno un piano per rapinare una gioielleria, ma sfondano il muro sbagliato. Si ritrovano in una pasticceria e a quel punto non gli resta che rubare bignè e croissant. Quello che è certo è che non succede tutti i giorni di trovarsi una pistola puntata contro. Ma quel pomeriggio, mentre stanno parlando di Van Basten in macchina, a Pierluigi e Nicola invece capita proprio questo. E se noi blocchiamo i fotogrammi della scena nel momento in cui i poliziotti realizzano che appena a fianco a loro una macchina, anch'essa verde, sta sgommando a tutta velocità e si accorgono di aver sbagliato bersaglio, la scena prende indiscutibilmente una piega comica. Anch'io, una volta, ho preso di mira la persona sbagliata. Ero convinto che lui fosse fidanzato con una ragazza che piaceva a me. E così presi a dargli fastidio con la crudeltà e l'impegno che solo un adolescente può mettere in queste circostanze. All'epoca non si sapeva, o forse ero io a non saperlo, che cosa fosse lo stalking. Così avevo registrato, col mio Walkman, alcune frasi celebri. E tutti i giorni gli telefonavo e gliele facevo sentire. Ogni giorno una diversa, da Shining a Full Metal Jacket. Ogni giorno un piccolo passo avanti nella mia personale persecuzione nei suoi confronti. Avevo chiesto al mio compagno di banco di andare a suonargli il campanello di casa a una certa ora e subito dopo gli telefonavo chiedendogli chi era il citofono. Tutte le mattine lui veniva a scuola in bicicletta, tutte le mattine io arrivavo poco dopo di lui e gli sgonfiavo le gomme della bici. Se un giorno non facevo in tempo, quello dopo gliele bucavo. Tanto mi ero appassionato a lui che mi ero quasi dimenticato di lei. E tutta sta roba è andata avanti per circa un mese. Dopo quel mese è passato a pianificare e mettere in atto le mie strategie. Un sabato mattina, all'uscita da scuola, lei se ne va con uno che io non avevo mai visto. La mia vittima, che ignora ovviamente chi sia il suo carnefice, è di fianco a me. La saluta come si saluta una che appena si conosce. E mi chiede se lo accompagno a casa in scooter, perché la bicicletta è bucata. E io a quel punto gli dico, ma pensavo stessi con lei. E lui mi risponde, se io sto con lei allora sei tu che mi buchi le gomme. Io lì mi sento il peggiore fra gli uomini, anzi in quel momento io sono il peggiore fra gli uomini. A lui sto simpatico e invece non sa che io lo odio. Il senso di colpa che provo mi obbliga ad accompagnarlo a casa, ovviamente. Sotto casa sua mi guarda e mi dice, oggi vieni a giocare a pallone. Al pomeriggio passo, in quel campo con lui c'è anche Federico Ambiel, che è un mio amico, compagno di classe. Penso che se è amico del Fede allora è simpatico. Lo riaccompagno a casa in scooter. La bici è ancora fuori uso, ovviamente, e questa volta sono io a chiedergli se ci vediamo la sera. Passiamo tutta la sera a casa di Federico a giocare a Passo la Frontiera. Passo la Frontiera è un gioco dove uno immagina un personaggio famoso e gli altri devono indovinare chi è, più o meno. Il gioco in sé è già divertente, ma è lui, la mia vittima, che lo rende geniale, inventandosi personaggi tipo la signora Luisa, che inizia presto, finisce presto e di solito non pulisce il water. Oppure Werner Peratoner, lo sciatore, solo perché il nome fa ridere, ovviamente. Passo una delle serate più divertenti mai passate fino ad allora. Ecco, quella serata è stato il battesimo della nostra vera conoscenza e l'errore di bersaglio è stato clamoroso. Altro l'altro giorno mi hanno fatto notare che dovrei dire di più i titoli dei brani che mandiamo. Allora, vi ricordo che sono tutti sul sito di Radio 24, alla nostra pagina, che voi siete qui. Non solo ci sono i titoli, ma sono cliccabili. Ci cliccate sopra e si apre una pagina di YouTube e ve la ascoltate. Loro comunque sono i Fanfarlo, questo pezzo si chiama Fire Escape. 349-238-6666. C'è qualcuno che ha sbagliato bersaglio. Più divertente è Paolo che dice: non è molto chiaro, però ci provo. Il cane aveva l'abitudine di mettere la testa dentro la porta, mantenendo il corpo fuori. Allora decisi di fargli uno scherzo, impigliandogli la testa, aspettando il momento buono dietro la porta. Ho aspettato, seguendo l'ombra, ascoltando i rumori, e al momento giusto, zac! Mia madre, le ho schiacciato la testa tra la porta e lo stipide. Poveraccia Paolo. Paolo, non ho capito bene la scena, l'ombra, i rumori, tua madre all'ombra del cane. Però, più o meno, è una roba un po' alla mamma ho perso l'aereo. 349-238-6666. Pierluigi invece era su quella macchina verde e direi che la parola d'ordine è: me la sono fatta sotto. Pronto Pierluigi? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene, grazie. Direi che innanzitutto volevo dirvi una cosa. Io sono molto appassionato di radio, per cui mi sono emozionato molto, quindi vi volevo ringraziare. Ma figurati Pierluigi, ringraziamo noi te, perché questa storia è un po' tra il paradossale e il divertente, nel senso che c'è un po' ha un che di comico, no, questa scena. Voi sì, lì sì. Con le pistole puntate, parte una macchina a 100 metri e questi si girano e dicono: ah, e loro non hanno detto niente. Tutti gli ingredienti proprio per una scena da film poliziesco, diciamo. Sì, però un poliziesco con Ermonnezza, cioè come si chiama? Sì, esatto. Come si chiama Ermonnezza? Thomas Miglia. Sì. Pierluigi, dove sei in questo momento? Sono a casa, non sono in qualche ufficio, in qualche bagno di qualche ufficio, sono a casa. Bravo, quindi mi pare di capire anche che ascolti spesso, visto che conosci più o meno le frasi chiave, cioè dico sempre le stesse cose, quindi è abbastanza facile conoscerle. Sei a casa dove esattamente, Pierluigi? Io abito in un paesino che si chiama Carniano, in provincia di Lecce. Carniano? Sì. Senti, ma a questo proposito, visto che ho visto la tua foto che mi diverte molto, la racconto dopo, ma sei in un campo di calcio del tuo paese? Sì, sono al centro sportivo, sì, dove faccio il segretario. E chi è sto Vadac? È un mio amico, che giocava fino a qualche anno fa, ha giocato in Serie B, in Serie C. E veniva, no, e qui è molto noto, diciamo, veniva chiamato il Baggio della C1. Ah, quindi è suo il centro sportivo per cui più o meno lavori? Sì, vabbè, diciamo che si appoggia a questo centro sportivo, sì. Ok, ma quindi fate una scuola calcio? Sì, sì. E tu fai l'allenatore, no? Scusami, non... No, il segretario. Ah, ok. Però... Poi, per chi è curioso, invito ad andare su YouTube a vedere Vadacca Show, che insomma era uno per cui... Scusami, lo ripeti, Vadacca Show. Vadacca Show, cioè, vai su YouTube e lo vedi. Ok, questo magari dopo lo pubblichiamo anche sul profilo Facebook del programma. Cioè questo era il tipico talento puro, me lo immagino così, tipico talento puro che però per qualche motivo non è riuscito ad arrivare ad altissimi livelli. Sì, esatto, per fortuna un po' così. Ma non era lui il Nicola che era in macchina con te? No, no, no, no, no, no, no, lui è Nicola, è un mio amico di Milano. Che cosa ci facevi a Milano tu esattamente, Pierluigi? Ho studiato storia a Milano. Ma e ti sei laureato? No, ancora no. Ok, quindi stai prendendo. Quindi vediamo. Scusami, parliamo un po' del tuo curriculum. Tu finisci la scuola al tuo paese, giusto? Sì. Studi che cosa? No, ho fatto il liceo scientifico. Liceo scientifico, come tutti qua presenti probabilmente. Poi vieni a Milano su di storia, ti capita questo inconveniente, questo errore di bersaglio, e poi a un certo punto decidi di tornare giù. Sì, sì. E da lì subito sei diventato segretario della scuola calcio. Sì, sì. Da quanto lo fai quindi? Lo faccio da 3 anni. Ma quindi quanto sei rimasto? Scusami, ma tu hai la mia età, Pierluigi? Quanti anni hai? No, in realtà c'è stato un intervallo in cui sono tornato giù e poi sono risalito su a Milano dopo. Ah, ok. E quindi, cioè, alla domanda cosa vuoi fare da grande, cosa risponderesti, Pierluigi? Una bella risata, insomma. No, vabbè, sai. Mi piace questo approccio, mi piace molto, una bella risata. No, dicevi, scusami. Quello che viene, diciamo, sperando che venga qualcosa. Ok, ma stai cercando qualcosa oppure... Sì, certo. Ah, ma in che ambito, Pierluigi? Magari c'è qualcuno che cerca adesso, da quelle parti. Io sono disponibile in tutti gli ambiti. Aspetta, Pierluigi... quando uno ha bisogno di lavorare... No, perché... c'hai perfettamente ragione, però magari una specifica, che so, lavorare, che so, campo alberghiero, oppure magazziniere, oppure... autista, mi suggerisce Roberto Scaltritti di là. Tu? No, io anche per office, no, call center, dico, io sono disponibile in qualsiasi ambito. Ok, però secondo me quelli lì non è che ci stanno ascoltando, magari devi mandargli un curriculum. Certo, non lo so. Senti, Luigi, c'hai una straccia di fidanzata? No. No, ok. E quando la trovi? Non lo so. Io mi sto un po' prendendo a cuore il tuo caso, Pierluigi, scusami, sì. Perché in realtà ti sento tranquillo, non mi sembri preoccupatissimo. No, non è che devo sbattere la testa, come dire, no? Cioè, giusto. Però devo essere sempre cercare di affrontare tutto in maniera positiva. Sei un tipo ottimista tu, Pierluigi, in generale. Sì, cioè, sì, vedi il bicchiere mezzo pieno. Sì. Ma ad esempio, scusami se mi faccio i fatti tuoi, però siamo qua, poi devo dare la borsa, so che sono in ritardo, sì. Tiziano, però poi ti saluto per Luigi. Ma questo lavoro come segretario, cioè porti a casa 3 lire oppure? Sì, diciamo di sì. Ok, no, è perché mi sto preoccupando per Luigi, solo per questo. Vorrei saperti a posto sostanzialmente. Sì, però adesso diciamo non è che lo sono poi tanto, però insomma però arriverà. Pierluigi, grazie sì. Mille per la chiacchierata. Grazie a tutti. Stai bene, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Grande Pierluigi il migliore. Lo risentiamo magari dopo, magari gli è venuto durante la borsa, gli è venuta un'idea, ma un'altra volta. Voi siete qui. È un crepuscolo di primavera inoltrata, l'aria che si respira intorno a Pierluigi nella foto che ci ha mandato e che trovate come al solito sul sito di Radio 24 alla nostra pagina. Intorno a lui delle case bianche, tipicamente pugliesi, non si vede il campo sportivo, si vedono solo queste casine sulle colline, dei fichi d'India come vegetazione, e lui completamente rasato, il nostro Pierluigi, che nel gesto dei calciatori che dopo aver segnato un gol si girano di spalle verso la telecamera, in questo caso verso la macchina fotografica, e con i due pollici indicano il nome sulla maglia, e il nome sulla maglia dice Vadacca. Bersaglio, sostantivo maschile, il punto a cui si dirige un tiro, specifico di armi da fuoco o da getto, o in esercitazioni militari o in gare sportive. Nel pugilato, le parti del corpo che si possono colpire. In fisica nucleare, oggetto sul quale viene diretta una radiazione. Estensivo, qualsiasi oggetto preso di mira. Etimo, e qui viene il bello, etimo dal francese antico Versailles, derivato di Berset, tirare con l'arco. Data prima del 1321. Arrivò nell'ottobre 2003, voluto dall'allora tecnico Angelo Carrano, ma soprattutto dalla nuova dirigenza del Manfredonia, decisa più che mai a portare i biancocelesti in Serie C. Massimiliano Vadacca, 34 anni, il prossimo 30 gennaio, approdò alla corte del presidente Angelo Riccardi dopo una parentesi negativa a Taranto. Ecco, questo vi consiglio di andare su YouTube. Possiamo linkarlo subito, Margherita? Riusciamo? Manfredonia per rimettersi in discussione. Questo è il link di cui ci ha parlato Pierluigi poco fa. Andate su YouTube, o meglio andate anche sul nostro profilo Facebook e Twitter, buonanotte Twitter, e scriveteci Vadacca Show. Ci sono dei numeri non da poco di questo estroso calciatore di Serie C, diceva, Serie B anche, Serie C, che sono quei talenti che probabilmente non hanno davvero in realtà calcisticamente molto da invidiare a persone che giocano in categorie più alte, però appunto i grandi calciatori non si vedono solo dai piedi, ma spesso, questa è la banalità più grande, dalla testa. Bravo Matteo, l'hai detta. 349-238-6666. Io ringrazio quello che mi scrive, che chi si fa i fatti suoi campa 100 anni, a proposito delle cose che chiedeva Pierluigi, però a parte che ammetto che mi sono preso a cuore la situazione di Pierluigi. E poi, diciamo, chi manda una storia a questo programma sa che un po' si mette a nudo, magari una piccola parte, magari un polso, un pezzo di caviglia, però un po' di pelle nuda ce la deve far vedere. E Pierluigi ha deciso abbastanza di raccontarsi senza grossi problemi, e lo ringrazio per tutto questo. A proposito di errori di bersaglio, il fratello di mia nonna era arruolato in artiglieria. Si stavano addestrando con il mortaio. Il sergente diede delle coordinate. Mio zio Franco capì male. La chiave sta tutta qua. Mio zio Franco capì male. Puntarono, caricarono e spararono. Invece di colpire il bersaglio, la bomba finì contro un campanile. Grazie al cielo non si ferì nessuno. Da quel giorno fino all'8 settembre mio zio rimase in riserva alla polveriera. Si parla di errori di bersaglio come questi, ma anche più macroscopici. In apertura di programma vi avevo accennato un pezzo di questa storia che è diventata famosa come caso giudiziario prima, e poi come caso letterario in parte, perché è diventato un libro che si intitola Il Fuggiasco, ad opera del protagonista di quel caso giudiziario e dell'autore di questo libro, che si chiama Massimo Carlotto, che è notissimo soprattutto come autore di noir, insomma tutta la serie di romanzi sulla Ligatore è una serie bellissima e interessantissima. Questo pezzo che però vi voglio leggere è l'inizio di questo romanzo, che si chiama Il Fuggiasco, che è un romanzo autobiografico che parla esattamente di quella cosa lì. La mia vita di latitante terminò un giorno di gennaio del 1985, quando Melvin Cervera Sanchez, giovane avvocato di buona famiglia e grandi speranze, decise di interrompere il nostro rapporto professionale vendendomi ai Federales. Lui era il mio coyote. In Messico, per ottenere qualsiasi tipo di documento, anche se ne hai pienamente diritto, ad esempio perché sei messicano, ti devi rivolgere a questi signori, così chiamati per la loro spiccata sensibilità umana e professionale, che in cambio di denaro risolvono i tuoi problemi con la burocrazia statale. Il coyote non va confuso con il pollero, altra figura di rilevanza nazionale che si occupa invece dell'espatrio clandestino negli Estados Unidos. Decisamente più esoso del primo per la sua prestazione, pretende dai clienti tutti i loro averi e poi li stipa in camioncini scassati. 9 volte su 10 li abbandona in pieno deserto, dal lato messicano del confine, ovviamente. Oppure nei pressi di passaggi pattugliati da guardie di confine statunitensi, opportunamente avvertite, perché il pollero adora essere pagato in dollari. Io avevo deciso di rivolgermi a un coyote perché ero stanco di girare il mondo con visti turistici. Volevo fermarmi realizzando quello che è il sogno di ogni latitante: rinascere con un'altra identità e iniziare una nuova vita. Ero arrivato in Messico per amore, nel senso che alla mia fidanzata di allora, Alessandra, non erano piaciuti gli altri paesi che mi avevano precedentemente ospitato. Alessandra viveva in Italia e ogni tanto mi raggiungeva e si fermava giusto il tempo per rendersi conto che il posto non le piaceva e mai e poi mai ci sarebbe vissuta. Il nostro era un grande amore. Finì il giorno del mio arresto e da allora non l'ho più rivista. Ho saputo da poco che si è sposata con un rappresentante. Vive in un piccolo paese del Trentino, Mattarello. Forse per questo non voleva vivere in città come Parigi, Barcellona o Lisbona. Bad day, looking for a way home, looking for the grace came. Gets in his car and drives away, far from all things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says, did it turn, turn. Roberto Scaltritti al mixer, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Mauro Pescio, grazie a tutti loro, grazie a Pierluigi. È arrivato un messaggio di, si firma Vinx, immagino Vincenzo, che dice: ciao Matteo, sono il fratello di Pierluigi, lui è semplicemente una delle persone più belle che io conosca, adesso sto a Milano ed è stato bellissimo sentire la radio. Non siamo suo fratello, ma sono convinto che è stato bellissimo anche per noi. Grazie soprattutto a lui, quindi grazie a Pierluigi. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Alessandro Fort, sono di Treviso. La storia di domani è la mia e parla di mio fratello e della sua breve vita. Questa è la mia storia e io sono qui.